perché la piccola pesca è l'unica che pesca in, utilizza, o meglio, più che pesca, utilizza gli attrezzi da pesca rispettando la stagionalità del prodotto, del pesce. Ci sono mestieri che si fanno in certi, solo in, esclusivamente in certi periodi dell'anno e pescano certe esclusive specie ittiche. Ecco, noi dobbiamo ritornare, dobbiamo riportare anche chi sta vivendo problemi di ricollocazione produttiva, come possono essere i tonnieri, le spadare, ma anche altri mestieri, lo stesso strascico per certi aspetti, lo strascico costiero principalmente, perché lo strascico d'altura, anche lì il discorso è diverso, è l'unico sistema di pesca che permette di pescare alcune risorse, come per esempio il gambero, cioè risorse che stanno in una in un areale al di là dei 50 metri, dove sostanzialmente diciamo non avviene la riproduzione, non ci sono le aree di narseri, perché la riproduzione avviene principalmente nella piattaforma da 50 metri verso terra, dove c'è la posidonia oceanica, quindi in determinate zone. Ed è uno di quei sistemi che permette di pescare determinate, appunto, risorse che altrimenti non sarebbero pescabili, no? E quindi non sarebbe, come dire, proteine per l'alimentazione umana, cioè andrebbero perse sostanzialmente nel meccanismo poi della mortalità naturale, no? Quindi non utilizzeremmo queste risorse a fine alimentare. Mentre lo strascico costiero, lo strascico in parte anche illegale, è quello che danneggia quei fondali dove avvengono invece i processi di rigenerazione biologica. Ecco, quello lì bisogna cercare di evitarlo in maniera totale. Ci sono a volte delle deroghe, soprattutto in Adriatico, per alcune tipologie di pesca, però in prospettiva quello dovrebbe scomparire. E quindi tutto si rimette in gioco ritornando un po' al nostro passato, cioè rileggere quelli che sono gli insegnamenti dei nostri nonni, dei nostri padri, che ognuno di loro aveva 5-6 mestieri e che li svolgeva durante l'anno, 3 mesi uno, 2 mesi un altro, eccetera, proprio in virtù della stagionalità del prodotto, quando si avvicina lungo la fascia costiera, quindi è più facile pescarlo, e che comunque non rompe mai l'equilibrio, perché prevalentemente sono tutte, a parte il bianchetto, sono tutte specie adulte. Dicevo, questo progetto nostro qual è? Noi nell'attività di trasformazione, noi abbiamo costruito nel 2005 un piccolo stabilimento di lavorazione a Portopalo di Capopassero come cooperativa, e all'interno dello stabilimento lavoriamo sia la mascolina da maglia messa sotto sale, quindi la lice pescata con le menaide, e altre tipo le sarde sotto sale, le stesse acciughe di Lampara le mettiamo sotto sale, ma abbiamo avviato una linea di sottoli che è estremamente varia, nel senso che noi ad oggi abbiamo fatto circa 15 specie sottolio. Se voi andate in una qualsiasi area specializzata di prodotti ittici sott'olio, vedete il tonno, lo sgombro, le sardine portoghese. Una volta c'erano molte aziende, per esempio in Italia, che facevano sardine, ma erano grandi e importanti, parlo di 20 anni, 30 anni fa, sono tutte scomparse, perché purtroppo sta abitudine di mangiare le sardine, e la sarda è, assieme allo sgombro, quella che ha più omega 3, no? Quindi sarebbe il caso di mangiarla almeno è l'uno e l'altro 2 volte a settimana. Sì. E quindi dicevo, troverete appunto queste, se va bene, queste tre. Ora da un po' di tempo c'è anche il salmone messo in scatoletta, ma più di questo non troviamo. Ecco, se voi venite nel nostro stand, vedete che lì ci sono almeno 10-12 specie di prodotti, prodotti che sono prodotti facilmente pescati e facilmente trovabili nei mercati, prevalentemente del mezzogiorno, Però anche nel nord, tutto sommato, alcune specie si stanno via via conoscendo e anche apprezzando come fresco. Ecco, noi cosa facciamo? Quando c'è il periodo della lambuca, per esempio, il periodo dell'ala lunga, il periodo del tonnetto, il periodo del palamido o dello sgombro o della ricciola, noi prendiamo questo prodotto. Certo, lo prendiamo anche quando c'è sovrapproduzione, quindi sovrabbondanza, perché giustamente trasformare il pesce significa perdere il 50% di un chilo di pesce e tu ne ricavi il 50% alla fine per metterlo in vasetto, quindi devi vedere anche i costi. Però cosa fai? Intanto metti nelle condizioni il pescatore di non buttare via il pesce, nel senso che quando ci sono i momenti di maggiore pescato, spesso il pescatore è costretto a buttarlo a mare o a svenderlo proprio, a volte non ci prende. Ultimamente, per esempio, è capitato che con le alici di Lambara i pescatori nemmeno li portavano al mercato perché non riuscivano a vendere nemmeno 5 euro a cassetta, per cui fra la provvigione che dai al commissionario del mercato ittico, fra la cassetta, fra il trasporto, fra questo e quell'altro, non gli conveniva. E quindi portavano quello che dovevano portare, il resto andava buttato via. Ecco, allora con questo progetto noi cosa vogliamo dire ai nostri pescatori? Quando avete voi prodotto, vendete quello che riuscite a vendere, quindi con un prezzo per loro accettabile, remunerativo. Il resto lo ritiriamo noi, lo lavoriamo e mettiamo in giro, cioè nel mercato, anche questa è una biodiversità alimentare, voglio dire. Abuso io sempre abbastanza di questo concetto della biodiversità, però in fondo è questo. Cioè, la biodiversità cos'è? La complessità e la presenza di più specie che nel mondo interagiscono con l'ambiente, con la natura, con l'atmosfera. Quindi più specie ci siamo nel mondo, compreso noi, e meglio è, il mondo sta più in salute. E quindi se noi abbiamo questo patrimonio, un'altra cosa importante, mentre nell'Atlantico, nel nord Europa, eccetera, anche qui le specie che vengono mangiate e prodotte sono pochissime, sono, se va bene, la diecina, il salmone, il rombo, la sogliola, l'aringa. Nel Mediterraneo ci sono almeno 600 specie che sono commestibili, che fanno parte del patrimonio alimentare e gastronomico di tutti gli abitanti del Mediterraneo. Naturalmente ogni area, ogni zona ha la sua poi specialità, perché lì si pesca più di quel pesce, quindi è entrato un po' nel patrimonio gastronomico di quelle realtà. Allora perché noi, per esempio, non riusciamo a mangiare o ad avere nei mercati più di 20-30 specie? Non è un peccato questo, non è una ricchezza alimentare, è una ricchezza anche economica che non viene assolutamente sfruttata. Ecco, questo è il nostro secondo progetto. Andare a far conoscere quello che è il pesce cosiddetto povero, quello che è il pesce poco conosciuto. Per fare questo noi dobbiamo cercare di farlo ormai anche e soprattutto con i ragazzi nelle scuole, perché è lì il passaggio fondamentale. Se noi oggi non insegniamo i nostri figli, guardandoci bene, ma forse anche noi, oltre, se va bene, al pesce spada o se il filetto di merluzzo che c'è dentro il panino di McDonald's o il filetto Findus, cosa mangiamo? Forse qualche volta un po' di gambero, forse qualche volta una fetta di tonno. Non mangiamo nient'altro di pesce. Non siamo abituati a mangiare. Ecco, se invece noi ci accorgessimo che esiste tutto questo grande altro pesce, forse faremmo la nostra fortuna, nel senso che intanto mangeremmo bene, mangeremmo meglio e mangeremmo più sani e più salutisti. E faremmo complessivamente anche un bene a quelle che sono le comunità pescherecce. Noi col progetto Pesce di Stagione vogliamo proprio fare questo, sviluppare il più possibile questi prodotti. Abbiamo la possibilità, perché dobbiamo avviare ancora altre linee di lavorazione, come per esempio l'affumicato, il marinato e i preparati già li abbiamo iniziati a fare, però abbiamo iniziato con il sott'olio a fare tante specie, per cui cioè, difficilmente oggi tu trovi in qualsiasi posto tutte quelle specie che noi mettiamo sott'olio, però vogliamo che questo processo venga sempre più sviluppato, cioè che si passi da 10 specie magari a 20 specie ittiche. Tanto per fare un esempio, facciamo il cefalo, per esempio il cefalo e la muggine, che è un pesce, una carne bellissima, squisita. Abbiamo fatto il pesce pilota, abbiamo fatto l'orata, la ricciola. Pesce che man mano che si pesca noi lo ritiriamo dal mercato, dai pescatori, e lo mettiamo in vasetto. Fra l'altro il vasetto è in vetro ed è trasparente, potete vedere anche la bellezza estetica di questi filetti, che anche se hanno, come dire, l'occhio ha pure la sua parte, fa la sua parte, no? Ed è una cosa molto interessante. Nel panorama siciliano la nostra cooperativa, come dire, si posiziona rispetto a questi argomenti come quella probabilmente più avanzata. Ora non voglio, come dire, autoreferenziarmi, però devo dire che è vero, cioè, guardando in giro c'è qualcosa che riprende le tradizioni, l'esperienza in alcune aree, tipo Favignana, per esempio, col tonno, no? Marzamemi, sempre col tonno, dove si fanno tutte quelle... il tonno è un po' come il maiale, non si butta niente, no? E quindi in questi posti che c'è la tradizione della pesca del tonno con le vecchie tonnare, ancora oggi si fanno prodotti però limitati al tonno. Qualcosa per esempio c'era a Lampedusa, si sta perdendo anche lì. Per cui sviluppare questi progetti, io proprio l'altro giorno mi sono incontrato con un pescatore di Lampedusa proprio per ragionare con lui cosa si poteva fare in prospettiva, no? E effettivamente cose da fare ce n'è. L'ultima cosa che vi dico, e poi lascio la parola a voi se volete intervenire o fare domande, sta questione del tonno rosso. Noi fino all'anno scorso abbiamo fatto e avevamo nel nostro listino il tonno rosso sott'olio. Io ho evitato quest'anno di farlo sia per i problemi legati all'approvvigionamento, perché c'è un problema di quota, quindi c'è un problema di certificazione, e non è facile perché ancora oggi il tonno rosso è in mano a due grossi lobby economiche, no? Uno è un certo Fuentes che viene da Murcia, dalla Spagna, e uno, un certo Charlie di Malta, che sono quelli che gestiscono il mercato del tonno nel Mediterraneo. Per cui è difficile anche riuscire a trovare il tonno in maniera legale, quindi con le bolle, con la certificazione che è tonno di pescato da barche che hanno la quota. Per cui a questo punto un po' mi sono arreso, anche se io non sono d'accordo. Cioè uno stock di tonno rosso bisogna farlo, e bisogna farlo mangiare alle persone. È inutile che facciamo cose come sta facendo e sbagliando, per esempio, Sardo, il presidente della Fondazione per la Biodiversità di Slow Food, no? Perché lui, spalleggiato da qualche lobby ambientalista, dice no, non si bisogna mangiare assolutamente il tonno rosso, dobbiamo evitare, come la COP, ha sbagliato la COP. Se vi ricordate la COP l'anno scorso, due anni fa, noi non mettiamo tonno rosso nel nostro scaffale, nelle nostre cose. La COP il tonno rosso non l'aveva mai avuto. Cioè, voglio dire, io faccio parte del mondo Lega COP, noi della Lega Pesca, quindi sono vicino a questo mondo. E mi dispiace che a volte fanno anche, oltre terrorismo, fanno anche mistificazione delle cose. Il tonno rosso fa parte, cioè, tutta l'Italia era costellata di tonnare fisse che tra l'altro è un patrimonio architettonico in gran parte ancora esistente, da valorizzare. Ed era la nostra pesca, era una parte importante della nostra pesca, delle nostre tradizioni. Perché cancellare d'un colpo tutto questo? No, il tonno rosso va mangiato, la risorsa va monitorata, la pesca va controllata, l'illegalità legata soprattutto ai pescatori sportivi. Ancora oggi, a Catania, in Sicilia, ma in altre parti d'Italia, ci sono pescatori sportivi che il sabato e la domenica pescano tonnetti di un chilo, ora in questo periodo, novembre, ottobre, a centinaia e centinaia di esemplari. E poi che fanno? Parte, qualcuno se li mangia, una parte, poi siccome ne prendono 100, 200, 300, se li vendono, vendendo prodotto illegale sotto misura, quindi con tutti questi problemi che tra l'altro ha, e facendo concorrenza sleale al pescatore vero. Quindi queste mistificazioni le dobbiamo uscire, le dobbiamo dire. L'altra sera non so chi ha visto la trasmissione Mi manda Rai 3 sulla questione delle vongole. Hanno parlato della laguna di Venezia, ci sono delle persone che lì li hanno chiamati pescatori, ma queste persone sono contrabbandieri e predoni del mare, non si possono chiamare pescatori, perché i pescatori non commettono queste illegalità. Perché la gran parte dei pescatori sanno che se fanno illegalità lo fanno a loro spese. Poi c'è sempre la mela marcia, dappertutto. Lì che facevano? Andavano a pescare in aree interdette alla pesca perché vicino a Marghera, vicino quindi zone ricche di diossina, dove c'era di tutto, andavano a prendere ste vongole, poi trovavano il sistema per metterle nel mercato legale e quindi lì... Dico, tutto sommato la trasmissione è stata in fondo abbastanza equilibrata, però chiamare pescatori chi fa del danno non solo a sé ma anche ai consumatori, questi non si possono chiamare pescatori, bisogna chiamarli con... E purtroppo molti utilizzano questo modo di fare perché il pescatore in fondo è... non sono numerosi, quindi non sono nemmeno elettoralmente appetibili, anche se molti purtroppo votano a destra. però è una categoria spesso bistrattata, che purtroppo non si merita questo. Noi stiamo provando con questa attività a far sì che, come dire, nel momento in cui si ripensa un po' al modello di sviluppo, delle esperienze già attive come quella nostra possono in qualche modo essere utilizzate anche come appunto esperienze positive. E questo è un po', come dire, la nostra storia fino ad oggi. Vi ringrazio.